Ciao a tutte e a tutti ed eccoci di nuovo insieme su Music and Politics, uno spazio musicale all'interno della programmazione di Radio Forte. Il 25 aprile è stato il primo giorno in cui abbiamo provato a trasmettere, sappiamo che è andata molto bene ed abbiamo scelto un'altra data molto particolare per la seconda trasmissione ed è il primo maggio. Buon primo maggio a tutti, il primo maggio una data importante ovunque nel mondo ma soprattutto a Roma per noi, il primo maggio il compleanno, l'anniversario dell'occupazione di Forte Prenestino. Sono passati oramai 34 anni solo di occupazione, ma la festa del primo maggio andava avanti già da qualche anno prima. Bene, quest'anno sarà purtroppo un anno in cui non staremo lì insieme in migliaia come sempre è accaduto a festeggiare l'occupazione del Forte e a godere di tanta tanta buona musica come appunto è sempre successo in tutto questo tempo. La puntata di oggi di Music and Politics sarà uno speciale dedicato a tutti i gruppi di una scena in particolare, quella punk hardcore, che hanno suonato al Forte in tutti questi anni, chiaramente non solo di primo maggio ma tra la miriade di concerti che sono stati fatti in tutti questi anni a Forte Prenestino. Tanti, tanti, tanti veramente venivano dalla scena punk hardcore di tutto il mondo, un'esperienza importante e unica che cercheremo di testimoniare andando ad ascoltare brani dei più importanti gruppi che hanno calcato i palchi del Forte Prenestino. Sarà una selezione chiaramente dettata dalla mia memoria innanzitutto, ma anche dai miei gusti e dalle necessità di tempo, quindi sicuramente andremo a tagliare qualcuno anche di importante, ma sicuramente andremo ad ascoltare della buona musica insieme. Cominceremo da un gruppo canadese, quelli che già state ascoltando in sottofondo, loro sono i Nomins No. Hanno suonato diverse volte al Forte, a cominciare dalla fine degli anni 80, ho scelto di partire da loro, oltre perché sono tra i miei preferiti, anche per il titolo del pezzo che andremo ad ascoltare, si chiama Dark Ages e penso che siano proprio le nostre. Erano i Nomins No con un pezzo estratto da un album del 1988, Small Parts Isolated and Destroyed. Il pezzo era Dark Ages, veramente dei tempi scuri quelli che stiamo vivendo, ma noi ci allontaniamo un po' da qua e torniamo indietro e ricominciamo dall'inizio questa carrellata di gruppi punk e hardcore che hanno suonato al forte. Quello che sentite nel frattempo è Harry Rollins con la sua band, il pezzo è Followed Around. E siamo nel 1987, arriva Harry Rollins, già noto per la sua esperienza con i Black Flag, e in quel momento capiamo che al forte ne avremo viste veramente delle belle. Quello che vi farò ascoltare è un brano tratto da un LP uscito proprio in quell'anno, Hot Animal Machine, e questa è la title track, Harry Rollins. I won't break. Lui era Harry Rollins, Hot Animal Machine. Fu veramente un grandissimo concerto ed era incredibile l'energia che riusciva a sprigionare questo personaggio sul palco. E sempre in quel periodo, se non erro con la memoria, dovrebbe essere dicembre dell'87, arriva al forte un altro gruppo che fece storia poi in seguito, lo state già ascoltando nel frattempo, con questo pezzo che sta andando dal titolo Always Tell the Voter What the Voter Wants to Hear, ovvero di sempre a chi vota ciò che chi vota vuole sentire, ed è un tema sempre attuale. Bene, torniamo al concerto. Fu l'ultimo concerto che decidemmo di fare giù nella polveriera, nel fossato del forte. Nessuno si aspettava un'affluenza del genere. Suonavano insieme ai Chumbawamba anche DX, altro gruppo fortissimo di quell'epoca, olandesi. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare si chiama Amen. Lo si capiva già da allora, i Chumbawamba. Esiste anche un video di quel concerto da cui traspare chiaramente lo stato di euforia generalizzata che avevano portato i Chumbawamba e DX. E a proposito di video, mi è capitato proprio poco tempo fa di vederne uno di un altro concerto storico di quel periodo al forte. Si tratta degli Scream. C'è chi dice su questo video che sia dell'87, io ricordavo marzo 88, sono andato poi a fare delle ricerche ed ho trovato che si trattava invece di settembre-ottobre dell'88, comunque non nell'87. Gli Scream, un gruppo che sicuramente nella scena punk hardcore americana soprattutto è stato importante, ma la particolarità di questo concerto è che all'epoca suonava la batteria con gli Scream dei Grohl, e quindi insomma un pezzo di storia in più che passò per le mura spesse del forte in quegli anni. ed anche il brano che già stiamo ascoltando è tratto da un album di quegli anni, era il 1987, il titolo era No More Censorship. A proposito di titoli sempre attuali, mai più censura, ma purtroppo sono passati tanti anni e sappiamo bene in che condizioni ancora si vive riguardo alla libertà e al diritto di informazione. Bene, andiamoci ad ascoltare proprio il pezzo che dava il titolo all'album con gli Scream, No More Censorship. Erano gli Scream con questi vocalizzi sul finale vagamente metalleggianti. Di tutt'altra pasta era fatto il suono di un altro gruppo, anch'esso canadese, che suonò diverse volte al forte tra gli anni 80 e 90, un gruppo attivo già da molto tempo. Quando arrivarono al forte erano decisamente già noti e famosi, loro sono i DOA, e sempre a proposito di titoli ci andiamo a sentire General Strike. Gagliardi e Toschi, questi DOA, furono dei concerti indimenticabili, suonarono al Forte tre o quattro volte almeno. Una cosa che mi è sempre dispiaciuta è che non siamo riusciti a farli venire in quegli anni insieme a Jello Biafra, che invece poi, come vedremo, arrivò al Forte, ma proprio nell'89 produssero insieme un grandissimo disco, Last Scream of the Missing Neighbors, in cui danno veramente il meglio di loro, e faccio un piccolo strappo alla regola, quindi non hanno mai suonato insieme al Forte, ma che li andiamo ad ascoltare. Jello Biafra e DOA, That's Problem. We're tripling the rent. Time's up, the sheriff's here. Too bad for you if you freeze out on the street. The confined crooked palace downstairs will symbolize your neighborhood is slowly, slowly died. Bitch, gentrified. Ah, yeah, that's progress. That's a crime that's make you feel good inside. That's you running red lights. School rooms with no windows. Come voice cuts of gossip. And five, what can you do? Cause it costs too much to sue. The last person who'll ever see a file is you. Io lo considero tuttora un grandissimo pezzo, questo Death Progress. E a proposito di Jello Biafra, diciamo innanzitutto che purtroppo non è mai venuto a suonare negli anni d'oro con i Dead Kennedys, piuttosto inattivi a quei tempi. Lo abbiamo avuto ospite verso la fine degli anni 90, primi 2000 se non erro, per uno Spoken Words, per poi averlo finalmente nel 2008 a cantare live con i Guantanamo School of Medicine. Fu una collaborazione con Radio Onda Rossa, quindi facciamo un salto avanti nel tempo, ma il pezzo in realtà è molto vecchio ed è proprio dei Dead Kennedys, California Uber Alles. Ci ascoltiamo un estratto dal live al forte. È l'unico pezzo live che mettiamo in questo spazio di oggi, ma ci tenevo tantissimo a farvi sentire la voce di Jello che riecheggia per la piazza d'armi del Forte. Grandissimo Jello Biafra, come sempre emozionante, E continuando sulla linea dei gruppi della primissima scena, che però arrivarono a suonare al forte solo un po' più in là, mi va di ricordare gli Stiff Little Fingers, gruppo di Belfast. Ce ne andiamo nel Regno Unito, e a proposito di Regno Unito, questa è Alternative Ulster, Stiff Little Fingers. Ed erano gli Stiff Little Fingers con Alternative Ulster, un pezzo che rivendica l'indipendenza e l'autonomia per il popolo irlandese, una cosa che si usava fare anche tra i gruppi punk allora, come succedeva per esempio anche nei Paesi Baschi. Nulla a che vedere assolutamente con tutto quello che poi è degenerato nel sovranismo e nel nazionalismo degli ultimi decenni. Ma tornando alla musica, avrete notato queste sonorità decisamente original punk, tipiche dei gruppi di quel periodo, soprattutto inglesi, e tra questi ci sono decisamente i Buzzcocks, dei pionieri del punk, potremmo definirli. Ricordo quando andai a Londra la prima volta, comprai subito un loro disco e devo dire che essermi ritrovato una decina o poco più di anni dopo a farli da fonico ai concerti del Forte è stata veramente un'esperienza emozionante anche questa. E il pezzo che ci andiamo a sentire insieme si chiama What Do I Get? The Buzzcocks. Just wanna love her like any other, what do I get? I only wanna bend the state to the end, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? I'm in distress, I need a caress, what do I get? Just need a break, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? I only get sleepless nights alone, killing my heart to death. The interest in the time I try. ed erano i Buzzcocks con il loro stile non troppo aggressivo, potremmo dire, così come non lo era quello di Edix, altro gruppo storico punk 77 inglese. Anche loro sono riusciti a suonare al forte solo negli anni 2000, ma noi ci andiamo ad ascoltare un brano tratto dai loro primi dischi, si chiama Steamroller e loro sono The Addicts. Edix, veramente un pezzo divertente, una presa bene, così come lo è anche il brano che è già partito sotto. Loro sono gli MDC, un gruppo che ha usato questo nome in vari modi, l'acronimo è variato a seconda dei dischi, da Mordet Cops a Multi Death Corporations a Millions of Damn Christians a Millions of Dead Children, e ogni album era particolarmente incentrato su un tema, appunto, e all'interno dei dischi si poteva trovare un sacco di materiale di controinformazione su tanti temi, sicuramente in anticipo rispetto a molti. Si parlava di multinazionali, di quello che stava causando la globalizzazione che sarebbe arrivata da lì a poco, si parlava di allevamenti industriali, si parlava di nucleare, insomma era veramente un gran gruppo quello degli MDC, che vennero a suonare al forte la prima volta nell'inverno dell'89. Il brano che ascolteremo è tratto da un disco di un paio di anni prima, si chiama Multi Death Corporations, così come anche il titolo del brano. Yeah. MDC dagli Stati Uniti, decisamente più hardcore come sonorità, differente dal punk inglese. E a proposito di hardcore, come non menzionare un gruppo che ha fatto poi la storia dell'hardcore anche a livello mondiale, portandolo all'attenzione anche di un pubblico più vasto. Ai tempi non erano molto conosciuti, un gruppo non troppo impegnato magari politicamente, ma un grandissimo gruppo hardcore. Loro sono i NoFX, vennero al forte nel 90, mi pare. I trusted you, at least I thought I could. I tried to believe when you said, I've got a better job, I can pay you back real soon. But why don't you don't come no more? I know my luck has changed, my lifestyle had rearranged, I'm on my feet. Change your way, living from day to day. Why don't you fade away? I've heard all this before, you were sleeping on my floor, that only for a day. But as the streets passed, my patience didn't last, nor my food. You'll never change your way, living from day to day. Why don't you fade away? Day to Days, NoFX, un brano tratto da un disco del periodo in cui vennero a suonare al forte. Ma da qui ci spostiamo come sonorità, pur rimanendo sempre negli Stati Uniti. Quello che sentite sta già andando è un pezzo dei Fugazi, mitico gruppo che suonò al forte veramente tantissime volte. È simpatico ricordare come al primo concerto ci fossero forse 200 persone, 88, e poi l'anno dopo 1000, e poi 2000, e poi 5000, e poi 7000. Insomma, i Fugazi divennero di casa e ci andiamo ad ascoltare un brano tratto da Repeater, grandissimo album. Il pezzo si chiama Merchandise. Gazzi da Washington DC, i concerti rimasti nella storia, si creò una grande empatia tra il gruppo e il posto, ci fu anche un tour nel 95 a Salti Frontali, Brudopop e Fugazi, al quale partecipai, che culminò con il concerto di Roma, che fu veramente bellissimo. E quelli che sentiamo invece sono i Soulside, si assomigliano molto ai Fugazi per alcune idee musicali, anche perché escono sulla stessa etichetta, la Discord. E il pezzo che va sotto è Kill Me, veramente molto bello, ma ci terrei di più a farvi sentire per intero un altro pezzo che si chiama Name in Mind. I feel the hate. E dai Soulside passiamo a un altro gruppo americano che usciva su Alternative Tentacles, loro sono i False Prophets, fu veramente un concerto bellissimo, lo ricordo bene, e il pezzo si chiama Destructive Engagement. You got a rock instead of a ball. Well, I am your friendly policeman. Play inside the wall. On the count of three, throw the rock at me. And this is what I'll do. I'll let the rock bounce off my bed. Throw a bullet back at you. Questo brano dei False Prophets, in realtà non è uscito su Alternative questo, bensì su Dead Issue, e vede anche la partecipazione di questa backing vocals femminile. E invece ci andiamo adesso ad ascoltare un gruppo dai suoni completamente diversi, anch'essi americani, anch'essi attivi già dai primi anni 80. Sono gli Agnostic Front, Gotta Go. Erano gli Agnostic Front, Gotta Go, un suono decisamente più duro, un po' compact, a volte anche spaziando verso il thrashcore, sicuramente tanto testosterone, e quindi per compensare un po' ci andiamo ad ascoltare invece una band tutta al femminile. Loro sono le Bikini Kill, suonarono al Forte nel 1996 e il brano che ci sentiamo è Rebel Girl. Girls! Bikini Kill, quindi nel 96, 24 anni fa, il Porte aveva già 10 anni e noi continuiamo nel nostro zompettare su e giù nel tempo e ci andiamo ad ascoltare un altro gruppo americano che venne a suonare nei primi anni 90 al Forte, ricordo era inverno e si fece nella sala concerti quella piccola. Fu un gran concerto con una grandissima performance di tutta la band, ricordo facevano della specie di coreografie, fu veramente divertente. Quello che sentiamo sotto è un pezzo che si chiama Mother of Christ, mentre quello che ci andiamo ad ascoltare è Bottom of a Chain, ovvero si potrebbe dire l'ultimo anello della catena. È un testo veramente interessante, andiamoceli ad ascoltare. Alice Dunnott. Bellissimi, bellissimi, Alice Dunnott tra i miei preferiti sicuramente, come del resto lo sono anche quelli che andiamo ad ascoltare a breve. Si tratta di Victims Family, anche loro hanno suonato al forte negli anni 90, anche se questo disco è di fine anni 80, si chiama They Cut Out His Brain. Con i Victims Family ci accingiamo a chiudere questo spazio Music and Politics speciale 1 maggio dedicato ai gruppi punk hardcore provenienti da tutto il mondo che hanno suonato al forte negli ultimi 34 anni. Chiaramente ne ho dimenticati, ho dovuti saltare molti, a partire dagli italiani, ma anche appunto tra i gruppi che sono venuti da fuori ci sarebbe da ricordare i Sick of It All, i Sam I Am, il SNFU, i Napalm Death, gli RKL, i Ratos de Porrao, i Distillers, Mars Volta, i Cortatu, i Mano Negra, i Rhythm in Peace, i God. Insomma, veramente la lista rischia di non finire mai, ma noi invece andiamo a concludere. Quello che state sentendo sotto è un pezzo di un gruppo americano, un duo, i Sabbath. Si sono trasferiti in Europa alla fine degli anni 80, hanno suonato diverse volte al forte, Hilary e Chris sono veramente di casa, si può dire, e approfitto della loro strumentale per salutare tutti e tutte, sperando che la selezione sia piaciuta. È stato un modo per sentirci un po' più vicini in questo 1 maggio anomalo. Ho scelto per chiudere un pezzo di un gruppo francese, Les Tugs, penso Les Tugs, forse, in francese non so bene, un gruppo francese attivo già dai primi anni 80, vennero a suonare al forte negli anni 90 e mi è rimasto impresso questo pezzo che andremo ad ascoltare, che si chiama He Kept On Whistling, ovvero egli continuò a fischiettare, un pezzo del 91. Vi consiglio vivamente di andarvi a sentire l'originale, ma invece vi proporrò una versione live che mi ricorda ancora di più quel giorno. Lo so, avevo detto che non avrei messo live, avrei fatto solo uno strappo alla regola, ma strappare le regole un po' è una mia indole, e ne strapperò ancora un'altra adesso. Ci andiamo ad ascoltare una versione ufficiale del 1999, rielaborata, si mischiano sonorità originali punk negli anni 80 un suono un po' più acido, a dimostrazione che il punk è anche da interpretarsi come meglio si crede. Un pezzo particolare con questo fischiettare malinconico che lo accompagna, malinconico come i giorni che ai noi stiamo vivendo, e quindi fischiettando ci andiamo a sentire le Turks, facendo finta per un po' che non sta succedendo niente, ce ne andiamo con la musica e speriamo soprattutto di rivederci presto. Ciao! Radio Forte.